Mercoledì 16 gennaio 2008, l'anno della svolta. Dagli studi di Rock FM, siti in via Locatelli 1, 20124 Milano, sta per cominciare l'ennesima esperienza collettiva denominata pane, burro e rock and roll. La colazione servita calda calda, fresca fresca, fragrante fragrante, dalla squadra, con l'Ariele che vi saluta, Spadino in regia e il nostro Roberto Fricantoni in arrivo, puntata 162. Pane, burro e rock and roll. E anche Mr. Trombetta, eh? La tua colazione rock. The best breakfast in town. Pane, burro e rock and roll. Siete pronti? Siete svegli? It may be good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. E allora il buongiorno agli amici e alle amiche che ci ascoltano in diretta sulle frequenze di Rock FM. Un buongiorno particolare a voi già svegli a quest'ora della giornata. E un buongiorno anche a coloro che invece con calma poi si vanno a ascoltare pane, burro e rock and roll su RadioRockFM.com, quindi ci ascoltano in fuorisincro, come si dice. Buona giornata anche a voi, maledetti. Spargete la voce, ci siamo noi dalle 7 alle 9 del mattino, pronti a così, a tenervi un po' di compagnia, a farvi ascoltare buona musica e a sparare le stupidate che la nostra trasmissione radiofonica ormai garantisce, da contratto, 2 ore di stupidate. Ho come al solito la mia redazione che mi ha preparato tutta la scaletta musicale, scaletta dei numeri di telefono da chiamare. Stiamo iniziando ormai da qualche settimana anche a star dietro ai sondaggi di pane, burro e rock and roll. Da ieri abbiamo un nuovo amico, Mate, 13 anni, fiorentino, ha una band da qualche giorno, hanno fatto solo 2 prove, però sembra siano già partiti col piede giusto, quindi ci chiedeva il nome da dare a questa band e sto selezionando i nomi proposti. Abbiamo invece un altro sondaggio lanciato dal nostro Andrea Patentato 147, dedicato ai colletti bianchi, agli impiegati. Reparto, non siamo sporchi, brutti e cattivi, ma siamo rock. Fino a ieri ci occupavamo della suoneria del vostro cellulare aziendale, da oggi invece ci occupiamo ufficialmente del vostro desktop. Io so cos'è un desktop, che già è buona come cosa, no? È lo schermo del computer, quello sotto, quello base, quello partenza. Sì, ho studiato, Spadino, poco, ma ho studiato. Quindi se siete impiegati, colletti bianchi, avete un desktop rock, non nascondetevi, confessatelo a pane, burro, rock and roll. Voglio un inizio fine, eh? Ecco, bravo Spadino. Esattamente così. Yeah. Black Rose. Hard to handle. Questa è classe. Let me light your candle, cause of mama, I'm sure all the hand and I guess around. Action speaks loud in the words, and I'm a man of great spirits. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your ad with me. Once I come along and down by the dozen, thing, let me light your candle, calls a mama, I'm sure all the hand and hand is around. Yeah, all the hand and hand. Oh, baby, baby, here I am, a calls her mama, I'm sure all down and out. Let me light your candle calls and mama, I'm sure all the internet is around. Quando potrò avere una sezione fiati con orchestra da usare nel mio show radiofonico? Quando potrò? Aspetta e spera, dice, sì. Black Crowes, Hard to Handle. C'è classe, c'è stile in questa trasmissione radiofonica. Approssimativa, sì, è vero, approssimativi siamo noi, ma con stile, con classe. Pane, burro, rock and roll, già programma di culto, con stile e approssimazione. Vi ricordo le coordinate, guardate, come se non lo facessi mai a quest'ora. 335-100-7777, nostro numero di SMS, e una casella di posta elettronica che è Ariel, come il mio nome, chiocciola, radiorockfm.com. Vale di tutto, segnalazioni, siete rock, non siete rock, avete problemi rock, non avete problemi rock, questo non è rock, questo è il mio desktop e non desktop, perché mi sgridano. Però ragazzi, anche voi alle 7:07 del mattino, capitemi, venitemi incontro. Saluto Claudio che ha notato la mia dislessia. Desktop, non desktop. E vale anche richiedere strombazzate, certo. Non fate i maliziosetti, non è quella roba lì che avete pensato voi. La richiesta di strombazzata è diretta a Mister Trombetta, la nostra spalla. Ormai da anni mi accompagna. Ah, quanto ti voglio bene, Mister Trombetta. Che sembra porti bene. Almeno così è statisticamente provato. Quella di oggi va immediatamente al nostro mitico Andrea Sacco, che sono anni che ci scrive al nostro numero di SMS. Oggi giornata particolare per lui. E quindi strombazzata, dove ci infilo dentro pure il mitico Gianmarco, detto Mazinga. Già ci sono altre richieste di strombazzate, con calma le affronterò. Belli attivi stamattina, cos'è? Metà settimana, vi svegliate tutti. Complimenti, bravi. Sarà pane, burro e rock and roll che vi fa bene, probabilmente, no? Proseguiamo, restiamo sempre un po' di... Ecco, bravo. Un po' più rozzi, ma sempre stilosi. Animals, rock and roll. In this dirty old part of the city, when the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now, my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you've been dead before your time is due, I know. One thing I know is true, yeah. time is due. Know it. Watch my daddy in bed at time. Watch his hair been a turning gray. He's been working and slaving his life away. I know he's been working so hard. I've been working too, baby. Every day, baby. Gli amici e le amiche là fuori lo sanno bene, dare un senso a questa trasmissione radiofonica è roba ardua, ma certo è che l'arrivo di Roberto Friccantoni mette sempre di buon umore in questo gabbiotto tetro e ancora senza la luce del giorno. Forse se non giustifica la trasmissione in sé, quantomeno dovrebbe il suo stipendio. Dovrebbe giustificare lo stipendio dello stesso, peraltro non ancora sotto contratto, ma forse non si dovrebbe dire. Però siamo pronti a firmare noi, facciamo sapere a chi di dovere. 16 di gennaio anche alle altre radio, alle altre emittenti, metà di gennaio, facciamo un almanacco del giorno che fu fuori contratto, così. Ma fuori contratto, sì, facciamo l'almanacco fuori contratto molto volentieri, con molto rispetto per la radio che ci ospita, la direzione che salutiamo con reverenza e con lontani simpatia. Partiamo lontani, ma classico, sì. 1605. Ah, ma così lontani? Sì. Registriamo la prima edizione di E l'ingegnoso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Le è piaciuto lo spagnolo? Mi è piaciuto il suo tentativo di spagnolo, il primo libro. Il tentativo di spagnolo. Non le sembrava uno spagnolo navigato? Quixote de la Mancha. Sì, da navigatori, sì, da primi navigatori. Il primo Don Quixote de la Mancha, ovviamente del grandissimo Miguel de Cervantes, viene pubblicato in quel di Madrid. Di Madrid, certo. Che libro. I mulini a vento. Quanti mulini a vento mi ha sfondato, caro Frickley, a testate proprio. È un grande libro nel quale alla fine poi si rinnega tutti gli ideali della cavalleria, che da pazzo questo enorme, gigantesco Don Chisciotte aveva invece avvalorato. Alla fine del libro lui rinsavisce, questo un po' ci delude, lui deve rimanere pazzo. Ma è la metafora, maestro, è la metafora della vita. La metafora delle pale dei mulini a vento, certo. Le pale che girano, un gran giramento di pale, ecco, molto bene. Proseguiamo, dovremmo fare cabaret, lo sa? Se l'hai mai volentieri, posto, volentieri. Proseguiamo, 1920, entra in vigore negli USA il proibizionismo. E mi lasci dire, si scagli. Parere personale, in democrazia tutti possono dire quello che vogliono senza offendere, far danni ad altri. Guardi, però, provo io, però, Friccantoni è un culo. Bene, democrazia, posso dire quello che voglio. Dica la sua adesso, prego. Isacco Rizzi è stupido, vede? L'ho detto, è democrazia. Ariel è una gran testa di... No, ma dica quello che stava dicendo. Di Vitello, di Manzo. Dica quello che stava dicendo. Stavamo parlando del proibizionismo USA. Il proibizionismo è l'inizio di una grande, secondo me... Sicuro che si può dire? Ma io credo di sì. No, non credo si possa dire. Di un gran danno. Un gran danno. Ah, lei perché... è antiproibizionista? Ma sì, perché proibire è sempre la strada sbagliata. Si può, redazione, parlare di antiproibizionismo a quest'ora della giornata? Ai. Ma insomma, le proibizioni possono servire, ma non in questo caso. In questo caso si crea. L'ha detto. Ma sì, ma si crea la voglia, la voglia. La voglia della proibizione. La proibizione crea la voglia. Va bene, proseguiamo dopo questa perla di saggezza di Roberto Fricantoni con il 16 gennaio del 1939 viene pubblicato per la prima volta Superman come striscia fumetti. Molto bene. Cosa fa Fritz? Finalmente. No, Mike, buongiorno, finalmente una striscia fumetti in cui si parla di me. Ma come? Ma no, ma di Superman, un supereroe, no, lasciamo stare, va bene, chiudiamo. Lei ha letto la mia autobiografia? No, e non ho nessuna intenzione di leggerla, dopo almeno che me la regala, magari. Dopo, non si regala, i libri degli amici si comprano per sostenere gli chiudiamo 1957 apre a Liverpool il mitico Cavern Club dove suonarono i Beatles. Che storia. When I saw her standing there. Sente, ha avuto anche lei l'impressione di sentire in lontananza risuonare le ruote, cosa sto dicendo? No. Le note, sì. Risuonare le note. Mattina presto, maestro, si rilassi ancora un po'. Esatto, dai, Spadino, vai con la musica. Purple che se la smanettano sui loro strumenti. Questa Lazy. Amici con patente davvero rocker nel vostro taschino, magari anche con bustina, diciamolo agli amici milanesi che facevano tanto i fichetti, che già avevano la patente davvero rocker. Alcuni amici toscani hanno anche la bustina dove inserirla dentro. Che qua fa l'evoluzione della patente davvero rocker. Amici che non ce l'avete una patente, ma la vorreste? Amici ed amiche che non sapete nemmeno cosa sia una patente davvero rocker? Benvenuti e benvenute alla puntata 162 di Pane, Burro e Rock and Roll. Sempre una buona giornata da parte dell'Ariele e da tutta la redazione, da tutta la squadra di Pane, Burro e Rock and Roll. Messaggi come questo servono, quello che sto per leggere, servono a lenire un po' la carognetta che ci avete voi, che ci ascoltate in diretta. Lo so che c'è quella carognetta, vi conosco, mascherine. E riusciamo a lenirla sapendo che c'è qualcuno messo peggio di voi, che fa sempre piacere, dai. Si sa, no? È quella sottile dose di cinismo che c'è in tutti noi. Si firma Spilung e commenta: oggi si comincia proprio bene, ragazzi. Ho letto un orario per l'altro sulla sveglia, mi sono messo in strada un'ora prima. Vabbè, un buongiorno un po' tuonato. Vedete, c'è chi si è svegliato prima apposta. Vogliamo parlare di quest'altro? Ho sognato che mi sarei svegliato con gli Yes. Suona la sveglia Rock FM e ci sono gli Yes. Ogni tanto ho paura di queste premonizioni. È bene ad aver paura. Mentre, vedi che sono, a quest'ora io non ce la posso fare, ragazzi. Cioè, mi vengono mille idee mentre c'è il brano, poi dopo appena sono in diretta poi mi dimentico tutto quello che volevo fare. No, ci sono un sacco di segnalazioni da dare. Ecco, questa riguardo a Chuck Bird. Ci chiedono che fine ha fatto l'Early Bird Special, il programma che fino a qualche settimana fa precedeva Pane, Burro e Rock and Roll. Sta andando in onda con un nuovo formato, l'amico Chuck Bird, nel pomeriggio in forma di pillolozzo, così sposando parte dell'immaginario di Pane, Burro e Rock and Roll, un pillolozzo all'interno del programma di Garavelli e un pillolozzo all'interno di Max De Rio nel pomeriggio. Quindi Chuck Bird c'è sempre. Amici ed amiche, si prosegue con stile e con classe, ma soprattutto con approssimazione. Signore e signori, Janis Joplin. Ah, ed è subito pelle d'oca. Get it while you can, baby. Vai, Janis. In this world, yeah. If you read the papers, no. Yeah. You know everybody's fighting. Ooh. On each other. You got no one you can count. Get It While You Can, Janis Joplin. Ma cosa mi succede tutte le volte che sento Janis Joplin? È incredibile, eh? E ho dovuto litigare con gente per colpa di Janis Joplin. Con pane, burro e marmellata inizia la giornata. Ma se ci aggiungi rock and roll diventa una figata. Comunque sia chiaro, se qualcuno offende Janis Joplin, io non ci sto. Ah, no. E ve lo dico subito, un pugno in faccia per difendere Janis Joplin, secondo me è un pugno giusto. È l'unico pugno accettabile. Non ti piace Janis? È troppo rocca, sporca.